Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In sommario oggi l'aggiornamento dal Brennero in vista dell'inasprimento dei controlli deciso dall'Austria alla luce della chiusura della rotta balcanica, l'aumento significativo della circolazione di mezzi pesanti sulla rete di ANAS e una campagna per la sicurezza sulle autostrade. In apertura quindi l'emergenza in divenire al Brennero e agli altri valichi con l'Austria in vista della stretta dei controlli sui migranti annunciata da Vienna. Oggi è in linea con noi Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. È notizia di questi giorni, la rotta balcanica di fatto è chiusa, il flusso dei migranti che con la primavera è destinato ad aumentare virerà via mare con l'Adriatico che rischia di diventare un passaggio trafficatissimo. Ecco Rossi, questo nuovo scenario che ripercussioni avrà sui valichi di confine con l'Austria una volta che Vienna deciderà di adottare il nuovo regime di controlli? È ipotizzabile un afflusso maggiore, ma soprattutto dobbiamo gestire la decisione dell'Austria che prevedendo dei controlli al confine potrebbe provocare una sorta di imbuto al valico del Brennero. Per fare questo dobbiamo naturalmente essere pronti sotto il profilo umanitario e pretendere dallo Stato che lo Stato gestisca la situazione non solo sul nostro territorio ma ben prima dell'arrivo delle persone sul nostro territorio. E per quanto riguarda invece il tema più attinente ai trasporti e quindi all'importante traffico merci che attraversa il valico del Brennero, credo che si debbano mettere in atto delle misure, naturalmente d'accordo con le autorità competenti e anche con i gestori dell'autostrada, che limitino al massimo i rallentamenti per i veicoli, perché questo chiaramente si traduce in un danno per gli operatori dei trasporti, ma per tutta l'economia. Operativamente cosa potrà succedere ai valichi? Lo avete capito? Diciamo che è ancora presto per dirlo perché dipende proprio dal flusso dei profughi quanto sarà in grado di rallentare tutto. Con le autorità austriache abbiamo un accordo che prevede che potremo essere avvisati in anticipo dell'adozione di queste misure e naturalmente in relazione alla tipologia di misura cercheremo di mettere in atto quelle azioni che ridurranno al minimo i disagi. Insomma, questo è il lavoro che dovremo cercare di fare. Le misure annunciate da Vienna dovrebbero scattare entro la metà di aprile, è in qualche modo confermato? Sì, potrebbe essere, però ripeto, il tutto deve essere poi verificato in relazione al reale afflusso di persone, di profughi, che in questo momento non è assolutamente aumentato, anzi è assolutamente diminuito anche rispetto all'estate scorsa, insomma, ecco. Lei ha proposto l'istituzione di una task force per fronteggiare l'emergenza e scongiurare il blocco al Brennero, dove, lo ricordiamo, ogni anno transitano 2 milioni di mezzi pesanti. C'è già una sorta di cabina di regia che è composta principalmente insomma dalle forze di polizia di frontiera sia d'Italia che di Austria, ma anche da delle gestori dell'autostrada e delle ferrovie, insomma. Una delle ipotesi è quella eventualmente di effettuare dei controlli a campione ben prima del confine per poi magari ottenere la possibilità, giunti al confine, di passare senza doversi sottoporre a ulteriori controlli. Insomma, questo potrebbe essere un modo per alleviare le possibilità di ritardi e di rallentamenti. Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento, grazie e buon pomeriggio. Grazie a voi. Mentre cresce l'attesa per quello che accadrà ai valichi di frontiera con l'Austria, dalle strade italiane arrivano dati incoraggianti sul movimento delle merci, un indicatore importante per tutta la nostra economia, il segnale di una ripresa che però stenta ancora a manifestare i suoi effetti. I dati di cui vi parlo riguardano i transiti lungo i 25.000 chilometri della rete di ANAS rilevati dall'Osservatorio del Traffico. Rispetto a gennaio, l'indice di mobilità rilevata dei mezzi pesanti ha fatto segnare un'impennata del 17,5%. Su base annua l'incremento è stato del 7%. Se si considera il movimento generale dei veicoli, a febbraio è stato registrato un incremento del 9% su base annua e del 5,1% rispetto a gennaio. Per commentare il significativo aumento del transito dei mezzi pesanti, abbiamo sentito l'ingegnere Ilaria Coppa, responsabile pianificazione trasportistica di ANAS. mese di febbraio ha registrato effettivamente un incremento notevole del traffico pesante sulla nostra rete, in particolare ha registrato delle punte di traffico addirittura del 17% di incremento e del 23% nel nord Italia. È importante anche dire che le sezioni di rilevamento rispetto alle quali noi mediamo il dato e facciamo le statistiche per l'osservatorio del traffico sono quelle che prevalentemente insistono sui nodi urbani e sugli assi di competenza evidentemente ANAS che hanno una giacitura parallela agli assi autostradali, quindi effettivamente è un traffico sia urbano, periurbano, metropolitano, ma anche di media lunga percorrenza. Indice pertanto di una mobilità afferente a un movimento intimamente merci che sta crescendo. L'arteria più trafficata, sempre tra quelle gestite da ANAS, è il grande raccordo anulare di Roma. Il picco è stato registrato venerdì 15 febbraio con 163.342 veicoli. Ragionando per macro aree, al nord la strada di ANAS più trafficata è la statale 36 di Lecco, a sud la tangenziale di Bari. Ecco come funziona l'osservatorio del traffico di ANAS. Il rilevamento del traffico in automatico è iniziato in ANAS in maniera sistematica e poi affinandosi nel tempo nel 2012. Prima avevamo dei sistemi un pochino più artigianali di rilevamento del traffico e di relative statistiche, invece a decorrere dal 2010 abbiamo iniziato ad implementare un sistema di sensori costituiti sostanzialmente da telecamere, radar e spire, che sono i metodi con cui noi rileviamo il traffico su tutta la rete ANAS. Adesso abbiamo circa 1150 punti di rilevamento diffusi su tutta la rete di nostra competenza, quindi su tutti questi 25.000 chilometri abbiamo una rete di sensori, più ci sono anche i sistemi, ad esempio sulla Salerno-Reggio il sistema Virgilius che ci consente anche di calcolare le velocità medie di percorrenza. La ripresa della circolazione di auto e mezzi pesanti è confermata da un altro indicatore. I numeri di ANAS infatti vanno di pari passo con quelli relativi all'aumento del consumo di carburanti. Secondo i dati diffusi dall'Unione Petrolifera, sempre a febbraio la domanda totale di benzina è salita del 4,7%, del gasolio da autotrazione del 4,9%. Parliamo ora di incentivi mare bonus e ferro bonus. Ne beneficeranno gli autotrasportatori che trasferiranno i loro mezzi via mare o via rotaia. Gli incentivi sono inseriti nella legge di stabilità, ma ancora mancano i decreti attuativi. Si parlerà di questo domani al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dove il capo di gabinetto Mauro Bonaretti incontrerà i rappresentanti delle associazioni dell'autotrasporto. Sul tappeto ci sono anche altre questioni, a partire dagli importi destinati alle deduzioni forfettarie per le spese non documentate. Importi non ancora definiti, tra gli autotrasportatori cresce il timore che possano essere ridotti unilateralmente dal governo. Di qui la mobilitazione delle associazioni, della quale ci siamo già occupati nelle scorse settimane. Torniamo sulle strade, questa volta parliamo di sicurezza. Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale, UNASCA e Confarca, le principali associazioni dei titolari di autoscuole, hanno lanciato una campagna per diffondere, è il motto dell'iniziativa, una cultura della sicurezza stradale. Paolo Berti, direttore centrale Operations di Autostrade per l'Italia, ci spiega come si struttura questa campagna. Abbiamo pubblicato più di 400.000 volantini in cui diamo informazioni specifiche su due argomenti. Uno sono i cantieri mobili, l'altro argomento sono l'utilizzo della corsia d'emergenza. Due fattispecie che non vengono trattate, secondo me, adeguatamente all'interno dei corsi di formazione per il ricevimento della patente. In particolare quello dei cantieri mobili. Come proprio dice la parola, sono dei cantieri che sono in lento movimento lungo l'autostrada e quindi non sono delimitati da coni o defleco come sono i cantieri fissi in autostrada. Quindi ci sono dei mezzi di protezione, un mezzo che fa sempre un'attività di spazzamento, un'attività di pulizia, un'attività di diserbo, e questi mezzi vengono protetti da dei mezzi, quindi sono dei cantieri che si muovono a una velocità di 30-40 km orari, quindi sono una piccola turbativa al traffico. Sono oggetto di interferenza al traffico soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti, che come sappiamo sono più del 20% di tutto il traffico percorso nelle autostrade italiane. La formazione andrà sia per i neopatentati, ma vuole essere anche un richiamo ai nostri amici autotrasportatori, una maggiore attenzione, perché chiaramente anche qui c'è personale che lavora. Per quanto riguarda invece la corsia d'emergenza, questo è un richiamo continuo che facciamo, che la corsia d'emergenza è proprio, bisogna utilizzarla proprio in quanto corsia d'emergenza, quindi fermarsi soltanto nel caso ci sia un'emergenza in corso. #autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. #autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.